maglietta. Yeah. La maglietta. Dino e che Yebina. La maglietta. Il cameriere. E non capisco perché bisogna arrivare a questi punti. Voglio soltanto una maglietta, Carlo. La maglietta. Io faccio pure gli straordinari. Quindi ho bisogno di un altro ricambio, Carlo. Oh, oh. Che cazzo? Sono il cameriere del bar in piazza. Piazza. Dove conti più di una razza. Questo lavoro pensato mi ammazza. Qui fanno il gelato che si è preso la piazza. Mi presento, la faccia innocua. Dai tavoli dei diavoli il clima si infuoca. Oh, vieni qui. Buonasera, dite pure. Non so ancora. Ti schiattassi senza le cinture. Sei tanto carino con la divisa. Beh, altrimenti mi fanno la perquisa. No, io dicevo con l'Apollo. Ma il guaio è che più che un cameriere sembri un macellaio. Che ti devo dire? Non solo un paio. Anzi, lo dico al capo, ne parlo a Carlo. Scusa Carlo, ma senti Carlo. Che cazzo Carlo, dammi un altro ricambio. Fa vedere la maglietta. Hai macchiato la maglietta. Ti presto la maglietta. Fa vedere la maglietta. Hai lavato la maglietta. Ridammi la maglietta. Fa vedere la maglietta. Ho scordato la maglietta. Uscito di fretta. Oh, mi presti la maglietta. Ho una maglietta sudata e una maglietta stropicciata. È la mia vita e la racconto. Il mio rap non ha punti d'incontro. Il mio rap è lo spunto per lo scontro. Il mio rap è il mio mondo e nel mondo soccombo. Vino al lavoro, chiamato Teo. Sul blocchetto annoto ordinazione le rime che creo. Maglia azzurra, il logo, il nome sul petto. Fedele alla maglietta, mi gettano nel pozzetto. Abbassa il colletto, Elvis e va in cantina. Per come conci magliette, tanti schiaffi con la carabina. Fa vedere la maglietta, è il tormento che vivo. Fa vedere la maglietta, tormentone estivo. Sono Bino quando fuori dal bar. Faccio freestyle e domando se vuoi essere una star. Ma senti Carlo, facciamo un patto, aspetta. Una maglietta, al primo live metto la maglietta. Fa vedere la maglietta. Hai macchiato la maglietta. Ti presto la maglietta. Fa vedere la maglietta. Hai lavato la maglietta. Ridammi la maglietta. Fa vedere la maglietta. Ho scordato la maglietta. Uscito di fretta. Oh, mi presti la maglietta. Ho una maglietta sudata e una maglietta stropicciata. Oh, oh, la maglietta. Yeah, la maglietta. La maglietta. La maglietta. La maglietta. E dammi un'altra maglietta, la prima. La maglietta. La prima volta che faccio un live mi metto la maglietta del bar Davide. No, il berrettino no, quello passo, lo lascia Gian. La maglietta. Oh Carlo. La maglietta. Oh Carlo. So dove tieni le magliette in magazzino, ce l'ho portato io lo scatolone. Lasciami la terza maglietta. La maglietta. Dai. La maglietta. Dai, lasciami la terza maglietta. Yeah, yeah. Questo è l'ennesimo sputtanamento che faccio con la musica. Balla bene. Fa vedere la maglietta. Hai macchiato la maglietta. Ti presto la maglietta. Fa vedere la maglietta. Hai lavato la maglietta. Ridammi la maglietta. Fa vedere la maglietta. Ho scordato la maglietta. Uscito di fretta. Oh, mi presti la maglietta. Ho una maglietta sudata e una maglietta stropicciata. Grande. E ti dico, quando avrai successo, se non mi dai 4 milioni...